Vendo tutto di Matteo Caccia. Vendere le cose non è solo un modo per liberarmi di tutto, è la maniera per ricordarmi che quello che non si vede, non si tocca, non si dice, è più forte di quello che ha accatastato nella mia vita. Quindi non mi fermo, vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Capita, lo so, succede a tutti e stavolta è toccato a me. Io però ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo una sciarpa dell'Inter. 38 anni, ne ho 35, ragazzi. Dai, dai, dai! Sono le 16:08, oggi è lunedì 24 maggio 2010, buongiorno a tutti da Milano. Milano è una città splendida, oggi c'è un gran sole, c'è un gran caldo ed è stato un weekend molto difficile per Milano, per i milanesi in particolare, per chi sta da una parte e chi sta dall'altra. Saluto in particolar modo oggi Fabio Cantadori, che è dall'altra parte del vetro e che oggi temo che patirà un pochettino tutta la diretta. Grazie anche a lui per essere qui oggi con noi. È stato un fine settimana difficile a modo suo per chiunque abbia avuto un papà che gli ha trasmesso una passione per il calcio, no? A favore o contro quello che è successo questo fine settimana. Però se c'è stato se avete avuto un padre che aveva la passione per il gioco del calcio e vi ha trasmesso quel tifo, voi comunque questo fine settimana avete avuto un qualche movimento strano nella vostra pancia. 800 24 00 24, 349 238 6666, perché oggi vorrei proprio parlare con i figli. Qualche giorno fa abbiamo sentito i padri che avevano liberamente obbligato i loro figli ad avere passione per qualcosa. Oggi invece vorrei girarla, perché la riflessione che mi ha evocato tutto quello che è accaduto questo fine settimana riguarda proprio mio papà e il rapporto che i figli hanno con i loro padri. 800 24 00 24, 349 238 6666. Solo i figli che hanno ricevuto quasi per osmosi, nemmeno proprio per passaggio di consegne, ma proprio per osmosi, una passione dal loro padre, una roba che non è stata dichiarata, semplicemente vivendola il padre l'ha trasmesso a voi che ne siete i figli. Già su Facebook mi ha scritto Maria Lucia: a mio babbo devo proprio l'aver imparato a trafficare con i tubi, lei parla di bricolage in questo caso, cavi elettrici, muri, tanto da averne fatto anche un lavoro per un certo periodo di tempo, con un'impresa di ristrutturazione. Ah, a lui e non a mia mamma devo senz'altro anche la passione e l'inventiva in cucina, ma di questo invece non voglio fare un lavoro. 800 24 00 24, i figli che hanno voglia di raccontare quello che hanno ricevuto dal loro padre, ripeto, passioni passate quasi in maniera tacita, no? Perché il padre la vive e di conseguenza la vivi anche tu. Tiziano Bonini ad esempio ha chiaramente la passione per la montagna, forse perché suo padre l'ha trascinato in montagna dall'età di 5 anni, neanche 6. Per Laura Faggini invece la passione del babbo è quella per la politica e per le motociclette. Ma ancora Paolo mi scrive: la passione per il mare da mio padre ho ricevuto, Sandro per il calcio ovviamente, per la caccia e la pesca. 800 24 00 24, 349 238 6666. Torniamo un attimo a quello che è successo in questo fine settimana. Voglio chiedere alle donne di non cambiare canale e anche ai tifosi che non hanno vinto coppe in questo fine settimana, perché non stiamo facendo fenomenologia della squadra, non l'ho ancora detto, posso dirlo, non stiamo facendo una fenomenologia dell'Inter, ma vorrei rivivere con voi alcuni momenti, perché so che ha a che fare un pochettino con la follia quello che ho fatto in questo fine settimana. Però io ho acceso un registratore in casa durante la partita Bayern Monaco-Inter sabato sera e l'ho vista a casa da solo, come spesso mi capita e come alcuni purtroppo già sanno perché ne ho già parlato, e poi l'ho risentita questa registrazione. Chiaramente quella persona non sono io, cioè, o meglio, sono io ma trasfigurato durante quei 90 minuti. Ammetto che forse è la prima volta che io mi metto veramente a nudo, perché è molto imbarazzante quello che uno dice durante una partita, in particolar modo durante una finale della Coppa dei Campioni, mi viene quasi fatica a dirlo. Quindi vi farò sentire dei pezzi, non vi faccio sentire tutti i 90 minuti, vi farò solo sentire dei pezzi. Vorrei però che voi la viveste con me, non come il Matteo Caccia di quella sera, altrimenti non la manderei in onda, ma come una sorta di fenomenologia del tifoso, cioè che cosa accade al tifoso in alcuni momenti della sua vita. Era sabato sera, era il 22 di maggio, erano le 8:45 e quello che faceva il tifoso, la prima cosa che il tifoso cominciava a fare era parlare alla televisione. fanno, ma il Bayern non riesce a... Cambiamo sui tacchetti. Diego, cambia le scarpe! La seconda volta che scivoli! A farli venire avanti, ha vinto 10. Sì, sì! Guardalo di là, guarda il tocco, guarda il tocco! Di Portogallo contro il Benfica. Via, via, via, Goran, via, via, via, via, via! Questo è tutto vero, nel senso che era tutto live dal vivo quella sera. La registrazione continua perché il tifoso, dopo aver parlato alla televisione, si mette anche a cantare da solo. Intero! Dirvi che sono imbarazzato è veramente dire poco, chi è dall'altra parte del vetro lo può sapere, ma andiamo avanti, andiamo fino in fondo a questa roba, perché il tifoso, dopo aver cantato, dopo aver parlato alla televisione, fondamentalmente soffre. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oddio Giulio, oddio, chiamando oddio, per nome ovviamente, certo. Ancora Robin. Invocando tutte le divinità del cielo e della terra. E poi c'è un momento in cui cerca di riflettere e quindi chiama i propri amici al telefono. Sono abbastanza inconcludenti in attacco, però non possiamo aspettarli troppo al limite dell'area. Facendo finta ovviamente di essere un esperto, manco fossi Gigi Garanzini, no? Chiamo e faccio finta di sapere robe. Non io, scusatemi, sempre il tifoso. E poi arriva il momento, che è il momento più difficile per alcuni ed è il momento migliore per altri. Diego Milito! Sei Diego! Sei Diego! Sono momenti ti amo, questi. Ti amo, Diego! Anch'io ti amo. Lo amo. E questo, diciamo, questo era il primo gol, no? Perché ce ne sono stati due sabato sera. Diego Milito! Questo era il secondo. Diego Milito! È due! È due! È due! Ne ha fatti due. Non so se l'avete capito, ne ha fatti due. E poi, niente, da lì, semplicemente, aspetta che arrivi prima possibile la fine. Dai, fischia! Tutti in piedi! Dai, dai! Sì! Devenir champion des mondes de football! Devenir champion des mondes de football! Devenir champion des mondes de football! Niente, e poi sono rimasto lì, intontito. Senza nemmeno capire il perché. Cioè, perché fossi stato così male. Perché quella gioia prima e quel senso di liberazione poi. E ancora quella felicità, senza compromessi. Avrei dovuto subito avvolgermi nella sciarpa e uscire per le strade. Ma non mi andava. E non riuscivo nemmeno a capire il perché. Guardavo le facce di quei tizi vestiti in pantaloncini e maglietta. E sentivo che quella era una roba loro, che avevano giocato loro, avevano fatto dei gol e adesso stavano urlando, stavano ridendo e si abbracciavano. Ma io, a casa, da solo, davanti ad una televisione a 1500 km di distanza. Intanto i clacson avevano cominciato a suonare e a me è venuto in mente il ragazzo che avevo visto arrampicarsi su un lampione di 20 metri di altezza in Piazza Duomo, con 20.000 persone che lo guardavano trattenendo il fiato. E niente, io mi rimanevo lì, impalato, senza fare niente. Perché? Sarà che non c'ero abituato. Ma che cosa si fa se la tua squadra ha vinto una cosa importante? Sì, ok, si va fuori a fare casino, ma poi, dico, dopo. Quando hai girato con le bandiere, quando hai schernito gli avversari, quando i giocatori sono arrivati e sei andato a vederli con i tuoi occhi. Dopo, che cosa fai? Perché, voglio dire, quando ti succede qualcosa di meraviglioso nella tua vita non hai bisogno di chiederti cosa fare, no? Insomma, ti nasce un figlio, lo accudisci, ti laurei, pensi al lavoro. Ti sposi, ti fidanzi, stai con lei. Ma dopo la vittoria della tua squadra? Io non me la sentivo di uscire con la sciarpa al collo e urlare e cantare. Ecco, improvvisamente ero come svuotato di tutta quella gioia, tutta quella roba pura, priva di paura, di titubanza. E mi sono sentito solo. E allora ho fatto una cosa. Ho preso il telefono e ho chiamato mio papà. Pronto? Lui la partita l'aveva vista in una stanza d'albergo, mentre era in vacanza con mia madre e altri amici. Ma come me aveva preferito guardarla da solo, quella partita lì. Ci siamo detti poche cose, con quell'imbarazzo che si prova un po' quando tuo padre e il figlio, cioè quando il padre è diventato abbastanza grande quanto il figlio, no? Abbiamo fatto un paio di commenti col sorriso sulle labbra, un accenno ai gol di Milito, un altro sul Bayern che non era stato sto granché. Poi gli ho detto salutami la mamma e ho messo giù. Lentamente le cose hanno ripreso forma. I giocatori che alzavano la coppa, i tifosi che suonavano fuori dalle finestre. Tutto aveva improvvisamente un significato. E tutto aveva a che fare con mio papà. Con lui che mi aveva trasmesso quella cosa lì, quella cosa priva di senso, di razionalità. Una cosa più maschile che femminile. Che ha a che fare con padre e figlio, appunto. E non c'è bisogno di spiegare perché devi tenere ad una squadra piuttosto che un'altra. Non c'è bisogno di trovare motivazioni. È un calore che ci si passa per vicinanza e non per ragionamento. Non c'è bisogno che ti dicano cosa fare e come farlo, lo fai, basta. Ed è una cosa quasi privata, che non ha niente a che vedere con l'attaccamento alla maglia, il rispetto per i colori, con le boiate da tifoso malsano. Che alla fine i giocatori sono professionisti, sono pagati per dare calcio a un pallone ed è un lavoro, finita lì. No, non ha a che fare con quella roba. Ha a che fare più con la fede e con la giustizia, ma anche con la scaramanzia, con l'appartenenza. E per me quella cosa ha a che fare con l'essere figli ed essere padri. Che ci si passa delle cose senza dirsele, senza quasi volerlo. E poi ti ritrovi a comportarti come nella vita di tutti i giorni non fai, perché sei un adulto. Eppure in quei 90 minuti vale tutto, anche sentirsi bambini. E allora cosa fai? E allora prendi la sciarpa ed esci, perché tutti là fuori si sentono bambini come te. Quella di oggi quindi è una vendita che per me è quasi una sfida. Cioè è un modo per dirmi che quello che non si vede, quello che non si dice, è più forte anche di un cimelio da finale. Quindi questa sciarpa è in vendita. Il suo prezzo sulle bancarelle era di 5 euro. La base d'asta qui sono 99 centesimi. Per raccontarmi quello che vi ha passato vostro padre, 80024 0024. I listen to the wind of my soul. Where I'll end up, well, I think only God really knows. I've sat upon the setting sun, but never, never, never, never. I never wanted water once, no, never, never, never. I listen to my words, but they fall far below. I let my music take me where my heart wants to go. I've swam upon the devil's lake, but never, never, never, never. I'll never make the same mistake. No, never, never, never. Devo tutto a mio padre, le mie passioni, i libri, la musica, la cucina e la bicicletta. Sono solo opposizione e ribellione al suo essere padre, Mario. Ciao Matteo, da mio padre ho ricevuto la passione per il teatro e a lui ho dedicato la mia prima commedia che ho scritto. Ciao Gabriele, 80024 0024 349 238 6666. Avevate paura che si parlasse solo di calcio in questa puntata? E invece no, si parla di figli e di padre. Andiamo quindi a Bergamo da Simone. Pronto Simone? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, bene, cioè, non me l'aspettavo questa chiamata. Nemmeno io me l'aspettavo questa chiamata. Senti Simone, cioè, devo dirti una cosa. Dimmi. Ho raccontato una piccola bugia nel messaggio. Cioè? Perché io non lavoro ancora in banca, mi sto per laureare e andrò tra poco a lavorare in banca. Senti, raccontaci un po' però, tuo padre lavorava in banca o lavora tuttora? Sì, lavora ancora, gli manca poco ma lavora ancora. E quindi si dice sempre, beh, guarda, tu ti vigli un bel posto in banca, stai tranquillo per tutta la tua vita. Sì, tutti così, io da piccolo, no, che schifo. Effettivamente faceva schifo, poi vabbè, cresco, la scuola che si avvicina. Simone, ogni tanto ti perdo, se ci sei proviamo ancora. Senti, ma tu cosa ti stai laureando adesso? In economia. Ah, ok, e cosa andrai a fare in banca? Non lo sai ancora. Sì, non lo so ancora, ho cominciato a mandare giù un po' di curriculum, vediamo. Senti, tuo padre cosa fa in banca invece? Direttore. Non ho capito. Il direttore. Ah, ok, benissimo. Allora, guarda, speriamo che metta una buona parola, papà, Simone. Me lo auguro. Ciao, grazie mille, buona giornata. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao. Andiamo a Torino da Cesarina. Pronto? Pronto. Cesarina, sei tu? Sono sempre io. Fantastico. Per chi non la conoscesse, Cesarina è l'ascoltatrice da Torino che è venuta al Salone del Libro e dipinge, giusto? Cesarina è una pittrice. Sì. Io devo tutto a mio padre, ai libri, alla musica, all'amore della natura e del colore. Ho cominciato a lavare i pennelli. Ma Cesarina, lui era un pittore. Allora aspetta, facciamo un attimo d'ordine, Cesarina. Tuo padre è un pittore e tu hai cominciato lavandogli i pennelli. Sì, lui era, perché non c'è più. Ok. Io sono anziana, l'hai visto, no? Sì, anche se dimostri 20 anni di meno, Cesarina. Senti, lui cosa dipingeva? Come me, dipingeva i paesaggi. Ah, ok, quindi è stata proprio... E io quando lo vedevo dicevo, che schifo, fai i paesaggi, io farò altro. Poi lui un giorno, a 14 anni, mi portò a vedere una mostra di una pittrice. A Milano, si era subito dopo guerra, guarda, io sono nata a Milano. Era una cosa straordinaria per me. E quando ho visto quei bei quadri con quei colori della natura, e quando ho visto la pittrice con quegli occhi scintillanti, ho detto, sarò anch'io pittrice. A Cesarina. Cesarina, grazie mille. Senti, saluta anche tuo marito. Come si chiama tuo marito, Cesarina? Ricordamelo. Giuseppe, come no? Ciao Cesarina, buona giornata. Ciao, stai bene? Andiamo a Frosinone da Lauro. Pronto? Ciao Matteo. Ciao Lauro. Finalmente riesco a parlare con te. Anch'io finalmente, che ci ho provato in questi giorni ma non avevi sempre il telefono occupato. Dimmi, sì. qual la tua passione? Per l'Inter, naturalmente, per la bene amata mi ha lasciato... Il tuo padre? Questa grande passione, sì. Senti, tuo padre com'era? Era uno che la viveva bene o male? Già si era visto... No, la vive molto bene quando vinciamo, la vive male quando... Vabbè, quello un po' per tutti, ma dico, quando guarda la partita... La guarda tipo te. Soltanto okay. Lui è più allenatore, cioè dà dette cambi, dette passaggi, se la prende molto con i giocatori in campo. Ok, Lauro, ti ringrazio molto. Salutamelo, buona giornata. Ciao, ciao, alla prossima. Ma il prossimo libro quando lo scrivi? Vediamo, Lauro. Sbrigati. Faccio il possibile. Ciao, buona giornata. Ultima, Silvia da Milano. Sì, ciao Matteo. Ciao Silvia, come stai? Io benone. Anche tu mi pare di capire una passione calcistica la tua. Certo, ero a Madrid col ricordo di mio padre, perché hai ragione tu su tutto, ma c'è anche un rapporto tra bambina e padre, per cui se una bambina vuol stare vicino a suo padre, adesso sono 90 minuti, i miei tempi erano solo 45 minuti, davano solo un tempo di una partita, e... Dovevi tifare, e quindi per stare vicino al papà bisognava guardare il pallone, e però me l'ha trasmessa. E in questo caso per stare vicino al papà sei nata a Madrid? Per stare vicino al papà che non c'è più, ed Silvia. Eravamo io e mia sorella ed eravamo lì con lui. Grazie mille Silvia, buona giornata. Ciao, alla prossima. Chiudiamo con quello che non mando quasi mai, perché anche se molti me lo chiedono, che cosa ne farai dei soldi che stai guadagnando, anche con questa sciarpa che vendo oggi, farò questo. Fare il bagno nelle terme di Nagano insieme ai macachi. Scalare il Monte Rosa. Attraversare l'Atlantico su una nave cargo. Lanciarmi col paracadute da 6.000 metri. Sposarmi a Las Vegas. Non importa con chi. Giocare una partita a tennis con Nadal e batterlo. Portare a cena fuori Natalie Portman. Fare un viaggio in mongolfiera. Spaccare a pallonate tutti i vetri di casa dei miei e poi ricomprarglieli. Imparare a suonare la batteria. Incontrare Obama, Mourinho e il Dalai Lama. Fare un viaggio con la Transiberiana. Vedere una finale del Super Bowl. Vedere il Taj Mahal. Attraversare la foresta amazzonica. Vedere il deserto della Patagonia, quello del Gobi e quello del Nevada. Imparare il cinese. Imparare l'arabo. Prendere il brevetto da pilota e quello da sub. E poi imparare a camminare sul filo. Federico da Como, 24 anni, scrive: sono diventato motociclista grazie a mio padre. Fare 500-600 km la domenica insieme è fantastico. È stato fantastico anche avere Fabio Rudi Candatore di là dal mixer. Grazie a Laura Faggin, Tiziano Bonini. Noi ci sentiamo domani. Domani vendo un paio di occhiali da sole. Voi alla fine godetevela, che alla fine è una passione, è sempre una passione. Love, love, love, wherever you